La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, in questo giovedì 16 di marzo, scadenza fiscale per chi come me ce l'ha tutti i mesi, ma detto questo sono le 16:29 primi e 53 secondi. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto in diretta in podcast. Vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar @radio24.it. Sono rimasto un po' indietro con tutti coloro che si sono candidati per puntate Italia non per giovani, nei prossimi giorni però ripariamo, quindi continuate anche a candidarvi per quello, perché ripariamo, perché la cronaca un po' vuole i suoi diritti anche nella trasmissione del pomeriggio, sia pur non proprio appiccicata la cronaca come quella della mattina, insieme ad Alessandro Minà, attenti a noi due. Allora, di che cosa parliamo oggi? Parliamo di Alitalia, perché sapete che ieri, dopo un lunghissimo consiglio di amministrazione durato quasi 7 ore, abbiamo appreso, nei termini generali almeno, il piano di rilancio cosiddetto della compagnia, piano di rilancio della compagnia, su cui oggi ci interrogheremo con due ospiti che seguono numeri alla mano le vicende di Alitalia, e in particolare chiedendo a entrambi che impressione fa la dimensione degli interventi sui costi e sui ricavi che sono proposti entro la fine del 2019 da questo piano. In sintesi, si tratta di tagliare, di operare sui costi per 1 miliardo di euro di minori costi in 3 anni, con un aumento dei ricavi del 30%, e con il ritorno all'utile alla fine del 2019. Restano due punti enormi aperti, perché al di là dell'approvazione del piano, sapete che Montezemolo poi ha lasciato in carico di presidente, è entrato con la sua amministrazione Gubitosi, e tutti si aspettano il conferimento al presidente Gubitosi, a quel punto anche di deleghe operative in vista di un progressivo ridimensionamento dell'amministratore delegato Kramer Ball, che esprime Etihad. Ma al di là di questo restano aperti due grandissimi punti. Il primo è quello di chi ci mette i soldi, quindi il finanziamento da parte degli azionisti, delle banche, eccetera eccetera, e ne parleremo oggi. E il secondo, che in realtà è la premessa del primo, perché i soci hanno detto: noi prima di, una volta noto il piano, vogliamo vedere cosa dicono i sindacati del piano, se la cosa è gestibile con l'ok dei sindacati ci mettiamo i soldi, altrimenti non mettiamo i soldi in previsione di un'esplosione ulteriore. La domanda che vi faccio è: da quello che avete capito, vi aspettate che Alitalia diventi quello che non è mai diventata da tantissimi anni, né quando era in mano pubblica e ci è costata pacchi di miliardi per la scelta che negli anni 90 si volle evitare colpevolmente, sbagliando l'aggregazione con KLM e gli olandesi, prima ancora di Air France insieme a KLM? Stiamo parlando dei tempi di Mingozzi, tantissimi oramai anni fa. Quella era la strada giusta, naturalmente chi si batté per quello, Rumego, venne spernacchiato dicendo che la nostra compagnia di bandiera non doveva operare fusioni, assolutamente, infatti si è visto. Dopodiché, di volta in volta, è stato con Air France e KLM il no che si è consolidato. Ricordate che si arrivò alla fine a una privatizzazione, perché lo Stato prese atto che era incapace di gestire senza perdere denaro. Dopodiché abbiamo avuto la cordata italiana, e a quel punto abbiamo avuto la fusione con Air One di Toto, anche lì numeri promessi strepitosi. Naturalmente la realtà è andata in tutt'altro modo. Poi si è arrivati all'ingresso di Etihad, che non può avere la maggioranza assoluta nella compagine societaria per evitare la perdita, secondo le regole europee, dei diritti sul mercato europeo, che possono essere goduti solo nel caso in cui la proprietà non sia appunto extraeuropea. Ma la realtà è che anche post l'ingresso di Etihad, dopo aver sommato le perdite assolute della mano pubblica, le perdite, comunque gli altissimi costi a carico dei contribuenti per finanziare i lunghissimi anni di sostegni al reddito degli esuberi di Alitalia nel 2008, la domanda diventa: adesso credete che questo nuovo modello che sembra indicato nel piano industriale, che non è la netta separazione tra low cost, mercato domestico quello che resta del mercato internazionale di cui si parlava, è una cosa intermedia, un po' né carne né pesce, ma credete voi che all'Italia abbia imbroccato la strada giusta? Quanto ai sindacati, vedremo. Gli esuberi noi non li conosciamo di preciso, la cifra che tutti ripetono è tra 1600 e 2000. Ricordatevi che il precedente dell'altissima tutela a costo del contribuente per gli esuberi non se lo sono dimenticati, ovviamente, i sindacati in Alitalia, ora che andiamo a nuovo esuberi. Quindi, se ci volete dare un'opinione, tanto più se lavorate in Alitalia o se siete clienti frequenti di Alitalia, ricordo che sul mercato domestico mai è Ryanair di gran lunga il primo vettore, chiamateci 800 24 0024. I due ospiti con i quali interrogarci su cosa pensano loro intanto di queste cifre di intervento sui costi e sui ricavi, se li ritengono fattibili, se questo basta davvero alla scelta di un modello, visto che i modelli di utile realizzato da parte delle compagnie aeree in un settore, quello del trasporto aereo, che ha visto in opera in questi ultimi anni delle dinamiche radicali, no? Con il successo delle low cost da una parte e dall'altra con l'utile concentrato in chi ha flotte e tipi di offerta soprattutto su lunghissimo raggio, dove ovviamente la marginalità è molto superiore, mentre invece la lotta è all'ultimo centesimo di margine sul breve e medio raggio. Se le scelte che vedono in questi piani industriali, in questi numeri, li convincono, perché il problema è che spesso parla di trasporto aereo, poi che è un settore molto specifico. Io mi limito a dire che faccio i miei auguri a Gubitosi, che non se ne è mai occupato nella vita, di diventare un esperto rapidissimamente, perché è un po' come il settore dell'oil, dei petrolieri, cioè i manager dei grandi gruppi dell'oil club fanno quello per una vita intera e chi non fa parte della congrega è considerato una specie di abusivo a bordo. Il trasporto aereo per moltissimi versi è fatto di manager iper specializzati che hanno seguito il consolidamento e la modifica del modello organizzativo e di business del trasporto aereo per quasi tutta la vita. Gubitosi ci farà capire, da presidente operativo, che cosa farà. I due ospiti, ve lo dico subito, allora, sono con noi innanzitutto Riccardo Gallo, che insegna economia applicata alla Sapienza di Roma, è stato un manager privato, è stato un manager pubblico, un mese fa ha fatto un articolo che mi piacque tantissimo sul Foglio, e ne ha scritto anche un altro oggi, e un mese fa, cifre del bilancio 2015 alla mano, ricavate dal calepino di Mediobanca, dimostrò che il problema era strutturale, neanche superando il 100% del load factor, cioè il coefficiente di riempimento dei posti aerei su tutti i suoi voli, all'Italia sarebbe riuscito a evitare il disastroso bilancio che si porta dietro in questi ultimi anni e che ha registrato una perdita record che ancora non conosciamo bene, ma superiore ai 500 milioni anche nel 2016. E dal 2009 al 2015 l'Italia ha chiuso il bilancio consolidato sempre in rosso e le perdite accumulate sono di 2,5 miliardi, un pacco di quattrini bruciati per i soci, Banca Intesa e così via. Ma quell'articolo era importante perché, numeri alla mano, il professor Riccardo Gallo dimostrava che era proprio il modello che non reggeva in piedi, non la cattiva gestione, e che per il rientro all'utile quello che sarebbe stato necessario era un intervento in proporzione del totale dei costi aggredibili, cioè quelli sul lavoro soprattutto, di proporzioni insostenibili di fronte a un'idea di continuità aziendale. Grazie di essere con noi oggi pomeriggio, professor Gallo. Aia, si sente male o sbaglio? Pronto, buonasera. Ah, buonasera. Buonasera, sì, adesso la sento. Allora, ho evocato quel precedente dei suoi conti perché proprio l'entità delle riduzioni di costo necessarie che lei citava in quell'articolo diceva mi rende molto scettico. Di fronte alle cifre di ieri, lei che cosa pensa? Che purtroppo le mie preoccupazioni restano confermate, nel senso che io dicevo l'Alitalia fino ad oggi non è né carne né pesce, come ha ricordato lei, cioè non è una grande compagnia di dimensioni mondiali e non è una low cost. Che hanno in comune questi due modelli? Hanno una bassa incidenza dei costi fissi. I costi fissi sono lavoro, manutenzione e ammortamenti. Ora, o una grande compagnia mondiale ha un giro d'affari di biglietti tanto grande da poter far pesare percentualmente poco i costi fissi, oppure una low cost che non ha detto quasi niente, ma diciamo si avvale di costi variabili, durante l'online, eccetera, eccetera, la manutenzione, insomma, c'è il minimo indispensabile. Uno dei due. Ora, il piano di ristrutturazione che è stato fatto riconosce questa diagnosi e in un certo senso dice facciamo un po' l'uno e un po' l'altro, cioè facciamo un po' la grande compagnia a livello mondiale e facciamo la low cost per i voli domestici. L'alleanza con i... Aspetti, la dobbiamo richiamare perché la qualità della linea rende incomprensibile quello che dice, quindi mentre la richiamano io intanto vado al secondo ospite che è Andrea Giuricin che insegna economia dei trasporti alla Bicocca, Università Bicocca di Milano. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi, Giuricin. Buon pomeriggio. Lei che dice dei numeri, cioè 1 miliardo di minori costi in 3 anni e più 30% di revenues? Anch'io ho molti dubbi su questo piano, non voglio essere catastrofista ancora prima che si inizi, chiaramente, però quello che faccio sempre notare è che siamo in un periodo che si è arrivati al picco massimo da un punto di ricavi e di marginalità del settore. Il 2016-2015 sono stati 2 anni molto positivi, vista la caduta del prezzo del petrolio. Per spiegare ai nostri ascoltatori del settore a livello mondiale, insomma. Esattamente, mondiale o anche prendendo le compagnie europee, sì. Le compagnie europee. Adesso è il periodo in cui sta diminuendo lo yield, stanno diminuendo i margini. Diminuire lo yield significa che anche aumentando i passeggeri probabilmente i ricavi rimarranno stabili e fare una, diciamo, presupporre che i ricavi possano aumentare il 30% di fronte a un tale ambiente competitivo a livello almeno europeo, tutto questo è quantomeno molto ma molto difficile. No, anche perché nel frattempo non è che c'è il potenziamento con numeri molto importanti su un totale di flotta di cui 20 velivoli sul breve verranno messi a terra entro l'anno prossimo, però non è che nel frattempo ne arrivano 10 sul lunghissimo raggio in cui si può immaginare una marginalità più elevata, cioè c'è un nuovo aereo grande che entra in servizio ad agosto di quest'anno, però quel 30% sembra anche a me una cosa... una specie di mezzo miracolo, poi magari mi sbaglio io, no, però è quello che dico anch'io spero di sbagliarmi per Alitalia e i suoi azionisti. Da un punto di vista però di efficienza, se vogliono fare questa fra virgolette low cost, perché è sempre difficile fare una low cost per una compagnia tradizionale, ci sono stati davvero pochissimi casi che ci sono stati dei casi di successo, sicuramente significa aumentare almeno la produttività di ogni singolo aereo, cioè farlo volare molto di più, quindi anche con meno aerei teoricamente puoi fare quasi gli stessi chilometri. Detto questo, sul lungo raggio c'è un punto di domanda molto grande, anche mettendo nuove aerei, mettendo nuove rotte, ad oggi le nuove rotte molte volte non sono profittevoli. Perché? Perché queste nuove rotte sono da costruire, come si dice in gergo aeronautico, cioè non dall'oggi al domani che io metto un aereo riesco a fare degli utili, bensì probabilmente dovrò trovarmi il mio mercato, dovrò costruire il mio mercato. Il caso della Roma-Seul è stato molto chiaro, proprio lanciato dall'Italia ormai quasi 2 anni fa, che la compagnia ha delle serie difficoltà nel tenerlo in piedi quel volo, tenerlo in piedi nel senso economico del volo. Quindi anche questo indubbiamente pone dei punti di domanda. È chiaro che la ristrutturazione completa da un punto di vista di costi è un primo passo assolutamente importante e non credo che i sindacati abbiano altre opportunità, perché l'altra unica opportunità è quella di far saltare l'azienda, e far saltare l'azienda non significa più mettere a terra 20 aerei, ma molto probabilmente significa metterne 50 di aerei a terra. Sempre che non risorga l'idea di qualcuno che naturalmente se ne esce dicendo che ci deve pensare lo Stato. La settimana scorsa su qualche giornale, qualche testata è uscito qualcuno che dicesse sì, la prenda Ferrovie, e io ho allargato le braccia. Ma detto questo, quindi dal punto di vista dei ricavi un aumento percentuale del 30% con questi limiti di flotta è, a giudizio di giurici, diciamo, senza voler fare i pessimisti, ma molto molto molto complicato da conseguire. Torniamo in seconda invece all'intervento di 1 miliardo sul totale dei costi sempre in 3 anni, perché l'analisi del professor Gallo, che è tornato con noi, speriamo con una buona qualità del collegamento, è iniziata 1 mese fa, proprio relativa ai costi. Ai costi, come avete sentito, le compagnie che vanno meglio devono avere dei ricavi tali e delle flessibilità tali da rendere la percentuale del costo sui ricavi, del costo fisso, la più bassa possibile, e l'opposto del caso di Alitalia. Professor Gallo, ma lei li crede facilmente, cioè ci crede a 1 miliardo di risparmio di costi in 3 anni? No, io non credo né alla possibilità né alla sufficienza, per così dire. Il divario è talmente forte che mi pare impossibile, per essere sincero, ma non per, anzi io faccio tutti i miei auguri e incoraggiamenti, no, chiaro, ci certo. Mancherebbe altro, però bisogna essere realisti. Allora, io ho fatto il conto che sul bilancio 2015, che forse era migliore del 2016, occorreva un riempimento degli aerei pari al 450%, cioè proprio manco in piedi, nemmeno attaccate alle ali, ovvero, detto in un altro modo, ma il concetto è lo stesso, occorreva tagliare il costo del lavoro per il 97%, ecco, esattamente. Cioè a costo del lavoro pro capite uguale bisognava licenziare 9.700 su 10.000 dipendenti, e che è una cosa impossibile, perché neanche le low cost, certo, vivono con una struttura virtuale. Ecco, quindi a me pare impossibile. Questo poi, io non voglio spostare il tema del dibattito vostro, ma naturalmente poi tocca alle banche. No, è questo infatti, adesso dopo il minuto di traffico, io riprendo con lei, perché lei oggi è intervenuto proprio su quello, cioè perché è andato a vedere sul totale degli attivi di Unicredit e Intesa le partecipazioni non finanziarie date, insomma, a compagnie che vanno abbastanza male. La domanda è, ma di fronte a numeri di questo tipo ci rimettono altri soldi? Che Intesa ce ne ha rimessi un mucchio, sia pur salvando la sua esposizione in Air One, che è il grande punto interrogativo di sempre, esatto, sull'operazione che abbiamo alle spalle, per così dire. Esatto. Tra 1 minuto di traffico torniamo con lei a questa domanda. Ma i soldi, perché metterceli di fronte a un numero di questo tipo? Traffico. Faircam Air and Ocean, spedizioni mare aereo in mani sicure e pratiche doganali risolte. Faircam.com vi presenta. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, tema all'Italia, dopo i numeri dell'intervento previsto e approvati ieri dal Consiglio di Amministrazione in questo piano, 1 miliardo in meno di costi in 3 anni, più 30% di revenues in 3 anni, e vedremo con i sindacati la trattativa. Si parla di 1.600, 2.000 esuberi rispetto a poco poco di 10.000 dipendenti, di tagli importantissimi per la retribuzione, un pilota ci perde 3.000 euro almeno al mese, e senza quell'accordo il problema è che i soci non ci mettono i soldi. Ma quando anche ci fosse l'accordo, ci diceva il professor Riccardo Gallo, quei numeri sono molto, insomma, ai limiti dell'azzardo, ecco, per tenerci in una posizione rispettosa e per non mancare di rispetto. Ma allora perché banche che ci hanno già rimesso un pacco di quattrini dovrebbero rimetterceli, professor Gallo? Ecco, per rispondere io mi permetterei di suggerire di partire dalla storia, dalla fine delle partecipazioni statali nel 1992, perché l'industria, le aziende che stavano sotto l'IRI e sotto l'ENI, quelle profittevoli sono state mantenute e sviluppate, quelle non profittevoli sono state ridimensionate e chiuse. Per esempio la chimica dell'ENI sì. Non c'è quasi più, la raffinazione non c'è quasi più e quindi ci sono settori non profittevoli che sono stati ridimensionati. L'Italia stava sotto l'IRI, ha sempre perduto, ma perché non ridimensionarla e non chiuderla? Tra l'altro è in mano privata e dunque qual è il problema per lo Stato? Dico questo perché le banche grandi, cioè Intesa e Unicredit, hanno un po' preso un ruolo, come dire, sostitutivo rispetto allo Stato, cioè con la scusa che sono banche grandi e banche di sistema guidate da persone responsabili, che responsabile poi è un concetto che dovrebbe essere il contrario. Capito, ma in una banca privata si risponde ai soci, se brucio il denaro i soci dicono piano figlio mio. E qua guardi, lei qua sta toccando proprio il nodo cruciale, perché bisogna vedere come sono fatte le nomine nelle grandi banche. Perché se le nomine nelle grandi banche hanno un'origine, per così dire, un po' politica, allora uno... accetta l'idea di perdere i soldi, per così dire. Accetta di perdere i soldi che non sono i suoi, ma sono dei risparmiatori. Non lo so, io mi fido un po' di più di Mustier, che diciamo in pochi mesi ha fatto ciò che molti ritenevano impossibile, ciò che lo stesso governo non era molto contento che davvero provasse a fare, che diffidava sulla possibilità che riuscisse a fare. Invece i 13 miliardi li ha portati a casa, segnale chiaro alle fondazioni azioniste di Unicredit. Ma io Unicredit non lo so. Intesa, penso che anche Messina e Miciche la voglia di continuare a perdere soldi non ce l'abbiano, hanno rilasciato anche dichiarazioni, lei ricorda un articolo di oggi recentemente dicendo insomma quelle sono partecipazioni che per noi sono da dismettere perché non sono cose core, non è più il nostro mestiere diversificare, cioè non siamo una finanziaria pubblica dei vecchi tempi pre 92 di chi diceva lei, però certo se non sono loro mi risulta difficile capire. Andrea Giuricino o qualcun altro mette i soldi? No, questo momento credo che sia questa opzione, quest'ultima opzione sia davvero difficile. Io sai che sono sempre stato abbastanza pessimista su questa l'Italia e tutto quanto, però vedo, cioè, voglio vedere anche un minimo di lato positivo. Ecco. Un minimo lato positivo è la capacità di arrivare a un accordo con Roma Fiumicino, perché ad oggi la grande debolezza dell'Italia, questo si ricorda poco, è stato il fatto che Aeroporti di Roma, giustamente visti i suoi interessi, hanno fatto un'ottima scelta nel 2015, però. Esattamente, per la cosiddetta Summer 2015, l'estate 2015, la stagione estiva 2015, hanno fatto entrare le low cost Vueling, EasyJet e Ryanair in maniera molto importante. Sì, ma aspetta, allora, perché da come l'hai detto tu, sembra che cioè la società di gestione degli aeroporti deve fare il suo mestiere, che è quello di alimentare traffico, tratte, destinazioni, perché è così che fai più revenues, cioè più entrate gestendo l'aeroporto. È una cosa assolutamente positiva. Bisogna anche dire che, da quanto so io, Vueling è abbastanza in difficoltà proprio su Roma Fiumicino, cioè sta perdendo soldi. Quindi Vueling sta ridimensionando la propria base su Roma Fiumicino, quindi si sta un po' ritirando. Dall'altro punto di vista, c'è un altro punto, che Oliri a dicembre scorso si è lamentato del fatto che Fiumicino gli stava aumentando un po' le tariffe. Sì. Se Alitalia riuscisse a far capire ad ADR, cioè convincesse ADR, che è il partner del futuro, chiaramente la situazione sul proprio hub di riferimento cambierebbe in maniera radicale e quindi, diciamo, questo turnaround sarebbe un po' meno difficile, non dico che sia del tutto fattibile, ma un po' meno difficile. Quindi questo è un punto, secondo me, da tenere in considerazione, che credo che anche gli azionisti abbiano tenuto in considerazione. Ma una domanda aggiuntiva, questo. Andrea, visto che tutti si aspettavano da Etihad, chissà quale, io non ci ho mai creduto che dovendo noi, per così dire, fare flusso per i voli verso l'Asia dalla base vera di Etihad, non ho mai creduto che questo cambiasse, modificasse sostanzialmente in termini radicali la marginalità positiva per Alitalia. E infatti non è andata così, per essere chiari. Ma Etihad qualche mese fa sembrava che potesse immaginare una specie di logica comune per l'altra partecipazione importante che ha in Europa, cioè Air Berlin. Invece quel discorso poi non è andato da nessuna parte, quindi approfittare dei guai sia di Air Berlin, che molto più gravi ancora, quelli di Alitalia, per ottimizzare la sua presenza in Europa. Invece no. Assolutamente no, anzi Etihad ne ha fatte le spese, tanto che James Hogan uscirà nei prossimi mesi da come amministratore delegato della compagnia, cioè gli errori europei sono costati la poltrona a Hogan, questo bisogna dire. Quindi Etihad in questo momento sta cercando un accordo, come ben si sa, con Lufthansa per cercare di trovare una nuova strategia europea, perché Etihad era l'unico vettore che era entrato così forte, in maniera così diretta, nelle compagnie come Air Berlin o come Alitalia, volendole anche gestire di fatto, anche non completamente, perché come sappiamo è impossibile avere il controllo delle compagnie europee da parte di un attore extraeuropeo. Quindi Etihad stessa è in difficoltà, Etihad stessa secondo me sta trattando e sta cercando di capire quale sia la strategia da attuare a livello europeo. E anche per questo, secondo me, le banche comunque si devono muovere, perché chiaramente non possono capito, subire. Ma aumenta il margine di rischio, però, a quel punto, anche per le banche. Non è che si devono muovere perché devono, per così dire, sostituirsi ai TIAD, perché non è un loro mestiere. Domanda secca, ultima, Riccardo Gallo: si aspetta facile la trattativa con i sindacati su queste basi e con tutto quello che abbiamo detto? Se la cifra è 1500 o 200 dipendenti e se c'è chi ci mette i soldi, io non la vedo difficile. Ma il problema è che mettono i soldi solo dopo che il sindacato ha detto sì. Io penso che invece passerà un po' di tempo, vedremo. Grazie a Riccardo Gallo, Andrea Giuricini, appuntamento su Radio 24, continuate ad ascoltare, ma con me Alessandro Mina domani mattina alle 8:20 a Tentene 2.